Middlemarch è probabilmente il romanzo più famoso di Marian Evans, conosciuta al mondo con lo pseudonimo maschile di George Eliot. Il sottotitolo del romanzo, Uno studio di vita provinciale, racchiude il reale contenuto del libro. Nella tipica cittadina provinciale dell'Inghilterra centrale, di nome Middlemarch, si intrecciano le storie di vari personaggi che attraverso le loro azioni e dialoghi ci restituiscono uno spaccato dell'ambiente provinciale, appunto, dell'epoca, con dovizia di dettagli e analisi politiche, sociali ed economiche. Fra i tanti personaggi che animano il racconto, di particolare interesse per la nostra scuola delle donne sono Dorothea Brooke e la sorella Celia. Giovane donna dal carattere particolare e dall'intelligenza acuta, Dorothea si incaponisce a sposare uno studioso molto più anziano di lei, convinta così di elevarsi sotto il profilo intellettuale rispetto all'ambiente in cui è cresciuta. Per scoprire che invece il marito che lei aveva idealizzato è un noioso, pedante e inconcludente topo di biblioteca che non riesce a portare a termine la ciclopica opera che si era ripromesso di scrivere, trascurando invece la giovane e intelligente moglie verso la quale esibisce la classica, indisponente benevolenza paternalistica patriarcale. Come già per la protagonista de Il mulino sulla Floss, l'altro grande romanzo di George Eliot, disponibile in audio su questo stesso canale di cui lascio il link in descrizione, anche in Middlemarch l'autrice offre uno sguardo prezioso e complice alla giovane e combattiva donna, mossa da ideali di bontà e uguaglianza, ma completamente bloccata nelle sue iniziative concrete dal sistema sociale ed economico patriarcale che le impedisce qualunque azione. Almeno finché, rimasta vedova ancora giovane, potrà finalmente disporre del suo patrimonio. Dorothea Brooke di Middlemarch, come Maggie Tulliver del Mulino sulla Floss, è un'altra nemesi della stessa autrice. Dorothea rappresenta lo slancio politico e sociale e l'attitudine al miglioramento della stessa Eliot. È una donna che non si può non amare per la sua rettitudine e onestà, malgrado l'ostinazione con cui, con le sue stesse mani, caccia il collo nel cappio di un matrimonio infelice e frustrante. Middlemarch affronta diversi temi legati all'epoca di ambientazione, l'Inghilterra centrale di inizio Ottocento, le differenze tra le classi sociali e i vari cambiamenti che ne modificarono gli equilibri, la riforma elettorale, il progresso tecnologico e scientifico, il realismo descrittivo e la lucidità di analisi lo rendono uno dei capolavori della narrativa inglese. Per eventuale approfondimento su Marian Evans, alias George Eliot, si ascolti la lezione della nostra Scuola delle Donne in Cerchio del 28 aprile 2020. Lascio anche questo link qua sotto in descrizione. L'edizione di Middlemarch che proponiamo è Burr Rizzoli, tradotta da Mario Manzari, e letta da Giorgia, figlia di Lidia. Da Devana, buon ascolto.